E a quel punto io volevo conoscere pienamente ciò di cui i ragazzi parlano continuamente. Charlie Owen mi veniva dietro sin da quando io ero una poppante. Charlie Owen lavorava all'emporio di suo zio a Indian Crossing. Un giorno andai lì, lo trovai seduto su un alto sgabello. Lui mi cinse la vita con le braccia, mi tastò il sedere con l'unica mano che aveva, l'altra l'aveva persa durante la guerra civile, e poi mi disse: "Vieni alla capanna delle trappole questa sera." E io lo sapevo. Io ci sarei andata alla vecchia capanna lungo il ruscello, e quella sera, dopo cena, uscii di casa e scesi il torrente. Pensando a quella notte dopo tanti anni, io posso ancora sentire il mio viso in fiamme. E una sorta di liquida debolezza in mezzo alle gambe, come un umidore in mezzo alle gambe, come se fossi venuta spontaneamente una melma rovente, mi scorresse nelle viscere compresi. Allora, non è col cuore che si sentono le cose, ma nelle budella quello che è certo. Non provavo nulla di romantico. Charlie Owen non perse tempo, mi abbracciò, mi slacciò il vestito, si mise a palparmi. Se ne era molto attivo con l'unica mano che aveva a me, non faceva alcuna impressione il fatto che ne avesse una sola. Poi mi prese in bocca il capezzolo e schiusi le labbra e gemetti di piacere. Era meraviglioso, non avevo mai provato nulla del genere. Caddi a terra, lo abbracciai, lui mi tolse il vestito, si tirò giù i pantaloni e scoprì allora una cosa a proposito della mia vagina e del mio basso ventre: la capacità di afferrare, trattenere l'arnese, come se stessi mungendo il capezzolo di una vacca. E poi in aprile Charlie disse che aveva ben 111 dollari da parte, ma che dovevamo andare via subito, dovevamo scappare. In realtà aveva svaligiato l'emporio di suo zio, e così una sera io riempii una delle valigie di zia Letty con tutto il nulla che io possedevo. Ma dentro io ero maledettamente piena di curiosità, di ignoranza e di spirito di contraddizione. Non sarei stata più trasecolata. Tutto mi appareva altissimo, grandissimo, coloratissimo. La cosa che mi spaventava di più, la vernice. Oh, tutto quello che si poteva verniciare era verniciato, e i miei occhi con colori talmente chiassosi. Nel mondo dal quale io provenivo nulla era verniciato, e tutt'al più, almeno quando era nuovo. Poi le cose venivano lasciate marcire alle intemperie. Giravo per la città tenendomi stretta al braccio di Charlie con gli occhi sgranati. Oh no! Mi rifiutavo di salire sulle carrozze a Nolo, e lo pregavo, dai, dai, torniamocene in camera, torniamocene in camera. Tornavamo, ci spogliavamo, ci buttavamo sul letto e via giù. Lo facevamo anche 4-5 volte al giorno. Io ero così impaurita che avevo bisogno di sentirmi rassicurata, come il bambino ha bisogno della tetta da succhiare. Dopo 2 settimane Charlie aveva una faccia da fare schifo, e io pensai che dipendesse da tutte le manfrine che facevamo a letto. Ma quando non fu più in grado di pagare il conto della pensione, io capii che aveva perso al gioco. E così, una mattina, me ne tornavo alla pensione piena di appetito. La padrona della pensione mi bloccò la strada lungo le scale. Inutile che sali, qui non hai più la stanza. Naturalmente rimasi di sasso, impietrita,

E dopo qualche giorno Emma mi disse che se volevo quella sera potevo lavorare e così mi spiegò i miei doveri di puttana. Con il suo forte accento tedesco mi disse pressappoco così. Casino di gran lusso, sai? Con una ottima reputazione serviamo soltanto la clientela migliore e abbiamo una sola regola: tu eserciti la tua kunst, la tua arte e non puoi rifiutare nessuno dei nostri clienti. Tu devi essere cordiale, devi essere gentile, devi essere servizievole. Ah, devi accontentarlo in tutto. Lui vuole questo, tu dai questo. Lui vuole quello, tu dai quello. Perché diciamo che lui è tuo padrone, tu sei sua schiava, ya? Allora tu devi essere cursum pulita, buona, servizievole, accontentarlo in tutto, ya? Hai domande, Nelly? Io dissi no, che non avevo alcuna domanda. Allora mi spiegò i convenevoli in salotto con il cliente e poi il lavoro su in camera. Allora, ogni volta fai finta di fare più grande chiavata di tua vita, ya? Urla, gemi, rotolati per terra, invoca pietà, di che lui è un uomo terribile. E poi, dopo, ogni volta fai grandi complimenti a lui per grossezza, peso, per essere venuto così tanto. Ci sarà qualche cliente che vorrà che tu dica parolacce. Tu conosci parolacce? Io dissi sì, pensando che tutte quelle che avevo imparato in campagna sarebbero andate bene. Ah, oh, brava, brava! Allora, questa sera diciamo che ti porti su quattro, no, meglio cinque clienti, ya? Dopo ogni volta ti lavi, Oh, molto bene ti lavi, sì. Poi ti aggiusti i capelli, ti aggiusti il vestito e scendi di nuovo giù. Se lui ti regala boccetta di profumo, tu prendi boccetta di profumo. Se lui ti regala denaro extra, tu prendi denaro extra. Ah, vedendoti così giovane, così nuova, ci sarà qualche cliente che vorrà sapere per quale English, per quale disgrazia sei finita fino a qui. Cosa che più gli piace di sentire è che sei stata rovinata da un vecchio. Ma eri pura, tu eri pura come un ciglio. E devi dire queste cose in tono molto triste, sai? Abbracciandolo mentre lo dici. Anche per questo vengono qui, vedrai chiamare. Oh, è una delle parti al servizio del cliente. Mi furono date calze di seta, le prime che io avessi mai visto e indossato in vita mia. Poi giarrettiere. Scarpe belle, scarpe col tacco, meravigliose, e una stupenda vestaglia. Una vestaglia rossa, col collo di piume. Quando mi vide Emma, mi sistemò la vestaglia in modo che, puff, le tette quasi mi schizzassero fuori. Poi mi diede un bacio e mi disse, Arzu. Il mio primo cliente, un uomo di mezza età, un po' grassoccio, si gettò sul letto e iniziò a parlarmi con grande eccitazione di tutto quello che stava per farmi. Io ero arrossata dappertutto, avevo caldo. Però una volta che lui fu sopra, che lui fu dentro di me, fu come era stato centinaia di altre volte con Charlie, io entrai nel gioco e dimenticai me stessa. Ecco come fu la mia prima volta in una casa, l'inizio del mio lavoro di puttana. E dopo un mese, dai Flegel, oh, io ero convintissima che avrei saputo tener fronte a qualsiasi cliente, a qualsiasi situazione. In città era venuta in tournée una compagnia teatrale con un attore famoso, questo Pug. Era un attore molto noto all'epoca. E quando c'era lui, il salotto era sempre pieno di allegria. Il grammofono, il pianoforte suonavano a tutta birra, il brandy, il whisky scorrevano a fiumi e Flegel suonava dei valzer con noncuranza. Mit Schlamperei. Pug mi disse: E dai, stiamo insieme questa sera. dovetti aiutarlo a salire le scale mentre lui ordinava a Zig di mandargli su del vino in una glassette. E poi in camera dovetti anche aiutarlo a spogliarsi. Eccolo qua, con le mutande lunghe e un po' di pancia, che schioccava le dita e voleva un sigaro, puzzava come un'ostrica andata a male. Continuando a schioccare le dita, mi disse: offrimi questo ballo! Il vecchio Pug vuole ballare! Il vecchio Pug vuole ballare! Io gli dissi che mi dispiaceva, non sapevo proprio ballare, ma che sarei stata felicissima di fare qualsiasi altra cosa per lui. Mi tolsi la vestaglia, mi sdraiai sul letto, lui mi si avvicinò, mi guardò e poi cominciò a grugnire. Kate! Mi chiamava con questo nome. Tu non sei una brava puttana, Kate! Tu sei una puttana da quattro soldi, Kate! E così via, iniziò a insultarmi e per tutto il tempo mi chiamava con quel nome. Kate! Kate! Kate! Puzzava! Puzzava di whisky, di sudore, aveva la bava alla bocca. Io pensavo che da un momento all'altro lui sarebbe caduto sul letto e si sarebbe addormentato. Io lo speravo perché adesso mi aveva afferrata con tutte e due le mani e mi stava trascinando per il pavimento. Ah, che tu sia maledetta, Kate! Tu mi hai strappato l'ultimo regalo, Kate! Ma adesso io ti sbatto contro il muro, Kate! E ti faccio uscire fuori il cervello, Kate! Io lottavo con tutte le mie forze, ma lui era più grosso, era più forte di me! Io ero nuda, nuda, a parte le calze, le giarrettiere, le scarpe col tacco! Tentai di urlare, però adesso lui mi stava letteralmente strangolando! Calciai di punta sul ventre dell'attore, poi calciai di tacco, calciai un'altra volta più forte che potevo, mi lasciò andare, urlando e bestemmiando con le mani sul linguine peloso. Svenni. Dopo quell'aggressione, un'aggressione diretta, autentica, bene, dopo quella aggressione io maturai, divenni una vera professionista. Non mi successe mai più una cosa del genere. Dai Flagel, il mercoledì avevamo la giornata libera fino alle 5 del pomeriggio, eh? E la domenica tutta la mattina. Girando in carrozza per la città, io mi sentivo un milione di miglia distante dall'epoca in cui abitavo alla cascina con zia Letty. Sì, ogni tanto mandavo del denaro a casa, almeno sino a quando morì mia madre. Seppi che era morta un giorno, per caso, da una signora di Indian Crossing che io incontrai all'uscita di un elegante negozio in Lafayette Park. Notai benissimo il suo stupore nel vedermi così elegante. E la signora mi disse che la mamma una notte si era sentita male. Allora era rimasta a letto, il papà le aveva preparato una tisana di erbe e dopo qualche giorno la mamma era morta. Io diedi alla donna, una certa signora Miller, $5 perché comprasse un bel mazzo di fiori da mettere sulla tomba di mia madre e la salutai in fretta. Entrai nel bar di un albergo e mandai giù due bicchieroni di whisky, uno dietro l'altro. Pensavo a mia madre. A quanto dovesse essere stanca la mamma, logorata dentro da tutte quelle gravidanze, tutti quegli aborti, tutto quel gran cucinare, lavare, pulire, i lavori nei campi, i pastoni per i maiali, ammazzare gli animali, mungere con il fango, la neve, il freddo, le mani tutte viola per il gelo. I denti tutti quanti andati prima dei 30 anni, la pelle ridotta a una carta vetrata, mai una parola gentile, mai un vestito che

qua nella pensioncina, qua. Sentì le doglie del parto farsi sempre più frequenti. Era come se il diavolo mi afferrasse le viscere. Volesse strapparmene. La cuoca nera della pensione era anche levatrice, almeno così disse. Allora legò una corda ai piedi, mi diede l'altro capo e mi disse: tira, tira bambina mia, ogni volta che senti il dolore tira, cerca di far venire fuori quel marmocchio, è stufo di stare là dietro. Io ero tutta sudata, urlavo, imprecavo, ed ero sola, ero sola, a parte quella cuoca nera buona, tutta sudata, piena di comprensione per me. Non è che mi fosse di grande aiuto la pancia non era mica la sua. Poi a un certo punto un grumo di dolore tutto insieme, io spinsi e venne fuori qualcosa. Eccolo, eccolo, è un... è un maschio, ha il birillo, è tutto a posto. La verità però mi faceva un pochino senso, era tutto come spellato, era rosso, era sporco, aveva quelle zampette di pollo. Io dissi: questa roba non è proprio niente, questa è qualche libra di carne per il cane. Poi però lo guardai un po' meglio. Lui aveva un ciuffetto di capelli neri, erano piantati così in avanti, erano uguali a quelli di Monte. E poi aveva la sommità del piccolo cranio, era ancora aperta sotto la pelle e si poteva vedere il cervello che pulsava mentre lui succhiava. Però io ero stanca, io ero tanto stanca, mi addormentai. Allora la cuoca nera mise il bambino dentro un cartone di sapone Pierce e me lo pose vicino al letto. Ecco come nacque i sogni. Io gli misi nome Monte, ma poi non lo chiamai mai altro che sogni. Adesso dovevo guadagnarmi da vivere per me e per il bambino. Non volevo più fare la vita. No, adesso mi sentivo una madre io. E così, con sogni di 6 settimane, 2 valigie, io presi un treno per il nord, poi mi imbarcai in un ferry per New York. A New York presi in affitto una pensione in Canal Street gestita da una certa signora Moore, un'irlandese che rideva e scherzava sempre. La signora Moore mi teneva a sonni, gli dava da mangiare la zuppa di latte, gli cambiava i pannolini mentre io andavo in città a cercare lavoro. Poi però una sera, appena scesa dal tram a cavalli alla vista della pensione, io sentii come una pugnalata nel petto. Era proprio come se una voce mi dicesse: non entrare, non entrare. Trovai la signora Moore col capochino che piangeva. Non temere, bambina mia, ho avuto gli ultimi sacramenti. Mi avessero tagliata la testa in quel momento, non mi sarei sentita più morta. Bambina mia, abbiamo scoperto che quel mal di gola era difterite e quella povera animuccia se n'è andata. Sonny non c'era più. Il dottore, chiamato all'ultimo minuto, aveva cercato di infilargli in gola una cannuccia di vetro per drenargli i polmoni. Allora lui aveva sbarrato gli occhi ed era spirato senza dire una parola. Alle pompe funebri misero Sonny dentro una piccola cassa bianca. Non mi fece nessuna impressione. sentì che quello che rimaneva di lui non era più niente. C'era solo una piccola cassa bianca, qualche fiore stantio e l'odore di cera per mobili. Seppellimmo Sonny in uno di quei lontanissimi cimiteri di Brooklyn. Quando rientrai nella camera, ero come intontita. Avevo gli occhi asciutti, però sentivo ancora il suo odore. Io proprio sentivo come quell'odore di bambino piccolo. E ricordo che solo una cosa mi fece piangere: la vista sul davanzale della finestra di un dolce con il segno dei suoi denti. Nel dicembre dell'anno in cui morì Sonny, io mi trovavo su un direttissimo, un ottimo treno diretto a New Orleans per aprire un casino e diventare una tenutaria. Due settimane dopo la morte di Sonny, io ricevetti un telegramma da parte dell'avvocato di Mr. Conrad, in cui mi si informava che era stata depositata a mio nome la somma di $11,000 in un conto a New Orleans, ma non mi si chiedeva né come stessi né che cosa facessi. E allora mi venne uno di quei pensieri che ti attraversano il cervello come un fulmine. Ma perché quei soldi non mi erano arrivati un mese prima? Magari Sonny sarebbe stato ancora vivo se io l'avessi portato fuori da quella torrida estate, fuori da quella schifosa pensione, fuori da quella sporca città. Ma fu un pensiero che durò quanto una fioccare di vita. New Orleans! Ah! Anni 80 del 1800! Una città in via di sviluppo, molto attiva, molto allegra. Io trovai una bella casa di 3 piani con una stupenda ringhiera in ferro battuto e una bellissima scalinata in pietra in Basin Street, nel quartiere a luci rosse di Storyville. Mi rifornii di argenteria, cristalleria, riempì la casa di tappeti rossi, vi aggiunsi quadri a olio, entro cornici dorate con una gran profusione di tette e culi, uomini grassi intenti a bere, mangiare, divertirsi. Più tardi ebbi nella mia casa i primi e più importanti suonatori di jazz, ma per quell'epoca io avevo un pianista che conosceva qualsiasi musica un cliente gli chiedesse. Nel salotto particolare per i clienti specialissimi si tenevano dei veri e propri concerti. I miei brani preferiti, ma la marcia turca, certe cose di Chopin. Scrissi ai Flegel di mandarmi 6 brave ragazze, belle, giovani, non drogate, non alcolizzate. Insomma, 6 puttane che non avessero un protettore o un amante da mantenere. Aprì una sera di marzo con un piccolo pranzo per i capoccioni della polizia. Alcuni esponenti politici servì brandy, champagne, pinot, chardonnay. Le caraffe brillavano e quel brillio diceva: sei una tenutaria adesso. Ero una donna d'affari e dovevo essere dura come qualunque uomo d'affari se volevo riuscire. Dovevo dare roba di prima scelta e farmi pagare profumatamente. Perché? Perché avevo deciso di tenere una casa da $20. Ah, al mattino la casa era come una tomba. Le ragazze dormivano. Era del tutto inutile che io facessi preparare il pranzo, perché soltanto verso le 2 qualche ragazza iniziava a chiamare le cameriere perché

comunque sempre, rimasi sempre sulla breccia, era amore per la vita il mio, sinceramente, proprio la curiosità di vedere che cosa ci fosse svoltato l'angolo. E imparai presto a vivere giorno per giorno. Per poterlo fare bisogna dimenticare la fede, la speranza. E io proprio non lo so poi quale sia il mistero. Ma cos'è? Cos'è che ci crea e poi ci distrugge? E tutto sommato neanche mi interessava un Dio che aveva fatto morire monte, sole. Un Dio che faceva morire i bambini nelle pensioni. Se ho un credo è di mantenere la mia parola. Sì, io pago sempre per ciò che prendo. Non sono amabile, no. Non sono gentile con gli stupidi. E per ciò che pago io voglio il prezzo giusto. Qualunque cosa io sia, io voglio continuare ad essere me stessa. E qualunque cosa o chiunque mi ucciderà, io voglio fargli un palmo di naso e dirgli grazie per il passaggio. Ecco qua. Così io la pensavo pressappoco quella sera, quando chiusi la mia casa. Del resto, se possiamo svegliarci ogni mattina, forse possiamo anche continuare a vivere. Addio, sto a rivivere. Mia ultima casa. Quella notte dormì bene, profondamente. Per la prima volta dopo intere settimane. Al mattino alle 10 feci i miei addii, presi un treno per la Florida, la strada era piena, piena di cartacce, c'erano bottiglie di vetro. Qualcuno aveva dato anche fuoco a un vecchio furgone di lavanderia a Storini. Ammesso che potesse ancora chiamarsi Storini. Gli ero affezionata a quel vecchio, dannato posto. Lo spettacolo La Maîtresse, liberamente tratto da Memorie di una maîtresse americana di Nell Kimball. Gaia Prea ne ha curato riduzione, regia ed interpretazione. Ben trovata. Grazie, grazie e saluti a tutti quanti. Che racconto è? Il racconto in prima persona, perché sono delle memorie reali, insomma la storia è vera. La storia di Nell Kimball, questa donna che nacque nel 1854 in Illinois, come lei dice in Un potere di Sassi, iniziò la sua carriera di prostituta a 15 anni e finì come tenutaria di bordelli e donna d'affari, diventando una delle più importanti appunto donne d'affari nel settore della prostituzione nell'America dei primi del Novecento a New Orleans. È una donna di cui ho letto ovviamente durante il lockdown, come tutti quanti che eravamo chiusi, a volte abbiamo dei libri messi là che diciamo ogni tanto prima o poi lo leggerò, era uno di quelli. Mi aveva incuriosito la storia di questa donna, dopodiché leggendola ho scoperto una donna fortissima, una donna con una grande dignità e con un grande senso etico anche morale, il che potrebbe sembrare una contraddizione ma non lo è rispetto al lavoro che faceva. È una donna che ha assunto su di sé anche, non dico le colpe, ma si è resa partecipe anche della parte bassa della società, cioè ha condiviso anche con la parte bassa gran parte della sua vita pur essendo a contatto con la parte alta, e ha potuto quindi tirare le somme alla fine della sua vita anche su cosa volesse dire appartenere alla parte alta o alla parte bassa, e alla fine i conti sono in pari, se non a sfavore della parte alta della società, cioè lei al di là del mondo della prostituzione ha trovato lo stesso tipo di corruzione e di delinquenza nella parte alta della società piuttosto che nella parte bassa. Il tutto ovviamente è filtrato attraverso l'occhio di una ipotetica telecamera che è dentro queste camere dove si svolgeva la sua attività, insomma. Ci hai detto della sua personalità, cosa ti ha convinto invece della scrittura? È sorprendentemente moderna e sorprendentemente diretta. scritta, pur mantenendo però una eleganza e un velo di ironia che rendono questo argomento apparentemente così scabroso in realtà anche molto divertente e molto comunicativo. Cioè lei ha la capacità, probabilmente dettata dal fatto che ne ha vissute talmente tante che ormai la retorica e la ridondanza erano elementi che lei poteva tranquillamente abbandonare, allora ha la capacità di rendere questo suo mondo, al di là di qualsiasi valutazione morale, un mondo che appare a noi molto vicino. Cioè entrare nelle stanze, nella vita quotidiana di un bordello, apparentemente sembra a noi così distante. In realtà lei rende tutto molto, molto chiaro e molto normale, come spesso avviene. Poi quello che a noi sembra distante, basta poi andarlo a conoscere per capire che non è poi così distante. Non c'è un giudizio a prioristico a favore o contro il mondo della prostituzione, il discorso non è questo, il discorso è una donna che, costretta ovviamente dagli eventi, ha intrapreso quella strada, però l'ha intrapresa con dignità, ha cercato di salvaguardare lei stessa e dopo, quando ne ha avuto la possibilità, ha cercato di salvaguardare ragazze che come lei avevano intrapreso quel tipo di cammino, senza mai giudicare e senza mai segregare in un mondo di serie B la gente che apparteneva a questo mondo, appunto. Come nasce l'idea di portarla in scena? È stata quasi immediata nel momento che ho letto, perché essendo tutta in prima persona, ovviamente il racconto è di 400 pagine, io l'ho dovuto ridurre a 32 perché lo spettacolo durasse un'ora, un'ora e 10, che sono i tempi ormai di fruizione normali per un monologo, e però sostanzialmente si poteva tutto quanto raccontare dall'interno di una stanza, che nella mia regia è ovviamente la stanza di uno dei bordelli ipotetici nei quali lei ha lavorato, che diventa metaforicamente anche ovviamente un po' il suo inconscio, il suo ricordo, cioè il luogo dove tutto è avvenuto praticamente. E allora la facilità di poter ridurre tutto quanto a un unico personaggio, la facilità di poter ridurre tutto a un unico spazio ne rendevano il testo quanto mai appetibile per una messa in scena teatrale. Lo spettacolo, devo dire la verità, ha già debuttato a Napoli, al Teatro San Nazzaro, che è coproduttore dello spettacolo. Poi siamo stati a Genova, alla Sala Mercato, ospitati dal Teatro Nazionale, all'interno del Festival dell'Eccellenza Femminile, anche coproduttore dello spettacolo, questi due coproduttori. E a Roma, poi sarà a Milano e poi il date in via di definizione, perché questo Covid ha messo molta paura in giro e quindi quello che prima era 100 adesso è diventato un 30%. Grazie, grazie a te. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Valerio Binasco, regista dello spettacolo Le sedie di Ionesco, a Roma, al Teatro Vascello, dal 1 al 6 marzo 2022. Ben trovato. Bene, grazie, bentrovati anche voi. Ciao. Ci parli di questo progetto? Nasce dal desiderio di fare un lavoro su Ionesco, che da un po' di tempo mi seduceva l'idea, insomma, no? Avevo fatto tempo fa al Teatro della Tosse la lezione di Ionesco e poi mi ero innamorato di questa storia d'amore fra due anzianissimi personaggi, chiusi in casa, relegati in una casa dove non vedono nessuno, non incontrano nessuno, da un numero interminabile di anni, e ovviamente non ho potuto non sentire che c'erano anche dei legami molto forti con le esperienze che stavamo vivendo del lockdown, no? Intorno a me vedevo tantissimi palazzoni pieni di finestre dove potevo immaginare le vite di due persone chiuse lì dentro. Bene, la cosa sorprendente di questo progetto però è stato il mio rapporto proprio con Ionesco, che è un autore che sembra essere estremamente caustico, famoso per essere così il paladino delle assurdità più spietate e più provocatorie per certi aspetti, che quindi non potesse accedere a un modo di far teatro che fosse anche molto carico di sentimenti e di, vogliamo chiamarla, poesia della vita. Ebbene, invece no, ce l'abbiamo fatta. Lui si è lasciato maneggiare, grazie ai due splendidi attori Michele Di Mauro e Federica Fracassi. Le sedie non sembra nemmeno tanto un testo del teatro dell'assurdo quanto una favola d'amore. Cosa ti ha affascinato del testo? Ionesco è un pazzo, naturalmente, è un autore rock e incontrollabile. Basta vedere la sua foto, vedi la foto famosa di Ionesco, vedi dal naso in giù un volto di vecchio imbronciato, ferito dalla vita, e dal naso in su due occhi di bambino messo in punizione, e dolcissimi. E quindi mi ha affascinato tutta la componente contraddittoria della sua scrittura. Non me ne frega nulla del problema che Ionesco aveva col teatro, con le forme teatrali, non me ne frega niente della sua ricerca del teatro dell'assurdo, e questo gliel'ho detto naturalmente in modo spiritico, ma gliel'ho detto: guarda, però nonostante tutto io sia disinteressato alla tua ricerca formale, sia disinteressato alle tue polemiche e anche alle forme, che poi sono note, sono diventate note in maniera nauseante quasi, no? Come teatro dell'assurdo, eccetera. Io ho creduto sempre alla parte degli occhi di bambino di Ionesco, cioè che sotto sotto, dentro quella scorza inossidabile, no? Di intellettuale incavolato, ci fosse poi un poeta, ci fosse poi qualcuno che aveva qualcosa da raccontare anche sulla vita, che avesse anche dei sentimenti teneri e condivisibili in maniera, insomma, profonda, ecco. E questo aspetto, che avevo notato anche nella lezione, ho voluto metterlo in rilievo più di tutto il resto, sacrificando forse alcune parti dove invece Ionesco metteva più in evidenza le sue personali contraddizioni. Per esempio, se c'erano delle battute di grande efficacia poetica o sentimentale, immediatamente lui inseriva 3 o 4 pagine di pernacchie, puramente indicanti il fatto che lui non prendeva sul serio nemmeno troppo se stesso, ogni volta che forse gli sembrava di essere un cantore dell'umano. Preferiva essere un cantore dell'assurdo, dimenticandosi forse lui per primo che l'assurdo è una delle componenti più importanti proprio invece dell'umano. Qualcosa già ce lo hai rivelato. Come hai pensato la messa in scena? Ho pensato che Ionesco avesse bisogno di più teatro di quanto potesse sembrare o di quanto potesse bastare a me. E allora, rivolgendomi a uno scenografo di grande fascino come Nicolas Beauvais e un costumista geniale come Alessio Rosati, intanto abbiamo creato una confezione che poteva essere adeguata allo spirito ioneschiano. Cioè questa clausura dentro un appartamento non poteva essere iperrealistica. E quindi è venuto fuori una specie di hangar semi distrutto, di vago sapore becchettiano, se vogliamo, oppure di vago sapore da reportage di guerra, ma con dei colori molto accesi, come se fosse un'installazione iperrealistica, con dei quadri rossi che indicano una finestra un po' apocalittica. E i due personaggi all'interno di questo sono ispirati un po' ai clown, c'è qualcosa di molto clownesco in loro, senza i nasi rossi naturalmente. Più i clown bianchi. Oggi si parla di distopico, no? Eh sì, come se fossero due abitanti di un mondo distopico che però hanno mantenuto una grazia nell'eleganza, anche se li rende più vicini a un personaggio buffo del varietà che non degli esseri umani. Questo perché credo che comunque la componente clown fosse importante per Ionesco, anche se poi ho un po' ridotto il carico sulle clonerie, eccetera. E l'impatto visivo è piuttosto bello, affascinante. Lo dico persino io che insomma, tendo, no, a non parlare particolarmente bene delle cose che faccio, ma proprio perché è il parto, è la creazione di due artisti notevoli che sono appunto Beauvais e Rosati, che io ho più seguito che non indirizzato. A partire dal Teatro Stabile di Torino in poi, che tipo di riscontri avete avuto? Beh, per adesso noi abbiamo avuto due tipi di riscontri piuttosto interessanti per noi, anzi entusiasmanti direi. Uno, abbiamo debuttato a Torino proprio appena il governo ci ha concesso di poter aprire dopo il Covid, e sembrava, a detta di molti, che fosse lo spettacolo che più di tutti rappresentava in qualche modo una riflessione poetica sulla situazione del lockdown che tutti quanti avevamo vissuto. E questo è stato di grande impatto per la città, cioè la gente apprezzato moltissimo, e sono contento anche per Ionesco, che è un autore che va molto maneggiato, se vogliamo, ma anche rivalutato nel panorama della cultura, del teatro e del divertimento della nostra nazione. Dopodiché è stato trasmesso in streaming, perché non c'era modo di andare in tournée, e anche lì c'è anche un documentario piuttosto interessante sul sito del Teatro di Torino che si chiama Dopo tutta questa vita. E anche lì sono state delle grandi soddisfazioni da quel punto di vista. È uno spettacolo che ha ricevuto vari premi anche per quello che può valere il fregiarsene, ecco. Quindi visto solo a Torino, ma con un eco importante. Siamo tutti in attesa adesso di vedere quali emozioni ci regala il Bascello. Speriamo che la città possa incuriosirsi a questo autore e a uno spettacolo delicato, ma secondo me interpretato in maniera straordinaria come questo. Lo spettacolo Le sedie di Ionesco con Michele Di Mauro e Federica Fracassi a Roma, Teatro Vascello, dal 1 al 6 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Valerio Binasco. A presto! Oh, grazie a voi. Ciao, vi aspetto. Ciao, ciao. Con Walter Malotti, regista dello spettacolo Giulietta, tratto dal racconto Giulietta di Federico Fellini, adattamento teatrale di Vitaliano Trevisan, a Roma, Sala Umberto, dal 1 al 6 marzo 2022. Ben trovato. Buongiorno a te, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ci parli di questo progetto? È un progetto che arriva da lontano, è nato nel 2004, è stato uno spettacolo felice, la protagonista Michela Cescon ha vinto tutti i premi possibili della critica, l'abbiamo realizzato insieme a Vitaliano Trevisan che aveva lavorato con lei in Primo amore di Matteo Garrone tra l'altro, e qui naturalmente va un ricordo commosso a Vitaliano che era il mio caro amico. Dopodiché una quindicina d'anni dopo ho pensato anche in occasione del centenario di Fellini, siccome era uno spettacolo di repertorio che avrei sempre voluto tenere in Italia, c'è questo problema per cui il repertorio insomma viene considerato sempre una cosa di serie B, no? Mentre invece come sappiamo all'estero, a Berlino può vedere gli spettacoli di Ostermeier anche per diversi anni, no? Quelli belli. Qui in Italia è più difficile, ma insomma appena dopo il primo lockdown abbiamo fatto tutto un lavoro sulla drammaturgia contemporanea, ho pensato di riportare anche grazie al centenario di Fellini in vita questo spettacolo con Roberta Caronia che è un'attrice formidabile e che non fa certamente rimpiangere Michela Cescon, tant'è che anche lei si è vinto un bel premiuccio della critica. È uno spettacolo che ha una forte componente visiva, le scenografie sono di Paolo Baroni, è un lavoro molto artigianale, tutto costruito in modo analogico, diciamo, sono molti piccoli effetti di luce, di scena, l'attrice è iscritta in una grande gonna che in realtà è un paracadute, dentro un piccolo circo è come lì inchiodata, no? una specie di farfalla, oppure come la protagonista di Giorni Felici di Beckett. È un testo felice, un testo che Fellini scrive ufficialmente prima come trattamento rispetto al film Giulietta degli Spiriti, e poi noi sappiamo che Fellini è un grande bugiardo, per cui chissà se questo testo è stato scritto prima, è stato scritto dopo. Comunque l'altro è pubblicato in vita, prima in Svizzera presso Diogenes Verlag, e poi è stato pubblicato in Italia dal Melangolo. È un lavoro felice dove ho iniziato anche più seriamente tutto il mio lavoro sulla musica, infatti l'attrice si intreccia con un percorso musicale molto fitto e tra l'altro lo spettacolo è debuttato al Teatro Regio di Torino con le musiche originali di Giovanni D'Aquila rielaborate a partire da un umore legato a Nino Rota, no? Insomma, sono molto felice che ritorni a Roma dopo tanti anni e lo spettacolo cui sono molto legato. Rispetto al racconto felliniano, qual è stato il lavoro di adattamento? Avevo iniziato io, poi a un certo punto insomma, sono diventato anche amico di Vitaliano e gli ho chiesto di ridurre, disidratare il testo, quindi la lingua è tutta felliniana, non c'è una parola che non sia di Fellini, ma Vitaliano ha fatto un lavoro da par suo, cioè ha reso quasi appunto becchettiana o bernardiana questa lingua di Fellini, senza cambiare una virgola del linguaggio, proprio trovando dentro la scrittura di Fellini questa chiave. Il trattamento di Fellini è già monologante, è proprio lei in prima persona che racconta, quindi non è stato difficile, certo abbiamo dovuto ridurlo perché insomma, era un testo molto cospicuo dal punto di vista delle pagine. Lavoro naturalmente che si è risolto in scena, nel senso che abbiamo tutti lavorato insieme, anche con la Michela Cescon all'epoca, e quindi è risultato felice di un lavoro di gruppo anche sulla scena, appunto con Paolo Baroni, con Francesco Dell'Elba che ne aveva curato le luci, ma sono tutte cose piuttosto sperimentali che poi invece risultano così semplici da vedere, ma che sono il frutto di un lungo laboratorio appunto scenico. Cosa avevi apprezzato delle suggestioni felliniane? Intanto il racconto è un pochino diverso dal film, ad esempio c'è Casanova, in una anticipazione di quello che poi è stato un personaggio diventato il protagonista di uno dei suoi film, c'è più libertà nell'esprimersi di questa donna, è molto più centrale. Il film Giulietta degli Spiriti che è il primo film a colori che Fellini fa, quindi si è trovato questo giocattolo in mano che probabilmente un po' si è distratto e un po' ha sviato dal percorso iniziale. In realtà lui pensava a Giulietta come un pandan di 8 e mezzo. Se in 8 e mezzo era la storia di un regista, no? Che era centrale nel film, qui doveva essere la storia di un'attrice. Poi pare che con la Masina non si siano capiti molto, lei non ha avuto il coraggio di entrare in prima persona dentro il film e quindi è diventata un pochino più spenta la figura di Giulietta nel film, è una casalinga sostanzialmente, no? Mentre noi abbiamo cercato, attraverso anche il trattamento, che è un pochino più forte, è un po' più spinto, un po' più duro, è un testo femminista, secondo me è molto, molto, molto interessante, e quindi chi verrà a teatro troverà, insomma, sorprendente questa scrittura che anticipava il film. Ci sono dei riferimenti web per i dettagli, un sito internet, pagine social? fondazionetpe.it, lì c'è tutto. Invece chi vuole conoscere la storia di questo spettacolo può andare anche sul sito di teatrodidioniso.it, così vede le due messe in scena. Lo spettacolo Giulietta con Roberta Caronia dal racconto Giulietta di Federico Fellini, adattamento teatrale di Vitaliano Trevisan, a Roma alla Sala Umberto dal 1 al 6 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Walter Malosti. A presto! A presto! Con Michele Sinisi, regista dello spettacolo La Grande Abbuffata, a Roma, al Teatro Basilica, dal 2 al 6 marzo 2022. Ben trovato Michele. Ciao Federico, saluti a tutti. Ciao ciao. Raccontaci un po' di questo progetto. Guarda Fede, l'intuizione in qualche modo è stata, appunto prima della pandemia, di Francesca Selta, del drammaturgo e dello scenografo Bianca Lani, a cui poi subito aderì, uso il passato remoto per quanto sia strano, no? Aderì Rossella Lepore, la direttrice artistica, poi trovarono anche la complicità produttiva del Metastasio, poi incontrai strada facendo nella concretina la costruzione di questo progetto, oltre gli attori con cui condivido tutti i progetti di allestimento, anche Nini Bruschetta. Ora Nini non è solo un attore noto a molti italiani per via delle sue anche partecipazioni a serie e film di successo, ma Nini è stato un importante regista dell'avanguardia teatrale negli anni 80, anni 90, e con lui alla fine degli anni 90 ho iniziato il mio percorso d'attore. Lui fu uno dei primi registi a scritturarmi, quindi ad avviare un po' la mia carriera teatrale, sì. E quindi allora mi trovo a dirigere il direttore in questo spettacolo, capito? Cioè, cosa molto assurda. Allora, di cosa si parla per chi non conoscesse La Grande Abbuffata? Provo a ridurre all'osso il plot del film di Ferreri. Nel film di Ferreri si parla di quattro amici che decidono di trascorrere le ultime giornate della loro vita in una villa di uno dei quattro. Gli interpreti erano appunto Philippe Noiret, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi e Marcello Mastroianni, e decidono di abbuffarsi fino a morire, diciamo così. Quello che rappresenta quel film è uno spaccato, uno specchio di quello che era la società italiana i due decenni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quindi il boom economico, tutti i suoi risvolti, quindi a questo nichilismo estremo che porta loro a decidere di farla finita, tutti un po' delusi, disincantati dalla vita, delle loro vite, nello specifico. Poi c'è l'entrata in questa villa, a un certo punto, di questa maestra che porta i bambini in gita per poter vedere questo albero famosissimo, il Tiglio di Boileau, e lei in qualche modo fa da ufficiante, come se portasse i quattro amici alla morte, e lei si rende subito conto di quello che dovrebbero fare, qual è il loro progetto. A lei si uniscono poi queste tre prostitute che entrano per desiderio nel film di Marcello Mastroianni e conducono poi questa vicenda fino alla fine, fino alla morte di tutti quanti. Come hai pensato la trasposizione? Il gioco è stato totalmente costruito in una scrittura scenica, in un work in progress durante le prove, tant'è che il copione è venuto appunto alla fine, no? Come ben sai tu, nel work in progress alla fine di questo percorso. Chiaramente la declinazione è stata in tre media buffata giocata su una bulimia audiovisiva, che è in qualche modo l'opportunità o in qualche modo la schiavitù che abbiamo scoperto attraverso la pandemia. Però la presenza di Nini, in qualche modo, essendo stato uno dei miei primi registi con cui abbia lavorato, è stata un'occasione per riflettere sul senso del rito, perché Nini interpreta il ruolo che fu allora del film di Michel Piccoli e che a sua volta interpreta il ruolo di un dirigente del mondo dello spettacolo, della TV nello specifico. E quindi Nini non ha fatto altro che creare questa spina dorsale nella discussione del rapporto col rito, sul senso del rito, sulla funzione del rito, ancora di più dopo questi due anni di pandemia. E quel che accade effettivamente confrontarsi attraverso le parole di Nini in quello che è l'evoluzione del nostro senso di comunità, dello stare assieme, la necessità che questo rito ha ancora la funzione, ammesso che esista ancora la voglia e il desiderio, l'istinto di riconoscersi nel rito teatrale. E Nini conduce questo percorso dal punto di vista verbale e concettuale, mentre intorno a lui poi accadono le traiettorie degli altri interpreti, attori e attrici, per portare, come dicevo, alla fine tutti quanti alla morte, condotti e officiati da Del Tiran, che è l'attrice, l'interprete, l'attrice cantante, la performer che interpreta il ruolo che fu allora di André Ferréol. Una delle caratteristiche del film di Marco Ferreri è la sua costante attualità. Sì, io ho scoperto Marco Ferreri grazie appunto agli studi universitari, dove tra l'altro ci siamo conosciuti, grazie al professor Orio Caldiron. Non era uno di quei registi che avevo visto prima ancora di intraprendere gli studi universitari del DAMS di Roma, no? Di musica e spettacolo, La Sapienza. Quando vidi quel film di Ferreri, restai molto colpito. Mi colpì anche in modo molto istintivo il fatto che il film fosse stato costruito quasi documentando l'esperienza stessa che loro artisticamente avevano condotto all'interno di quella villa, nell'ipotesi di fare quel film. La sceneggiatura era molto semplice, ora permettimi la parola, molto semplice. Lo dico in termini non diminutivi, nel senso proprio anche difficili, cioè sappiamo benissimo quanto la semplicità sia una delle scommesse più alte del mondo dell'arte e della comunicazione, del linguaggio. E praticamente lui cosa fece? Lui riprese la loro esperienza di abbuffata gastronomica e sessuale all'interno di questa villa e quattro interpreti, per poi montare il tutto quasi come se fosse un documentario di quei segni riportati sulla sceneggiatura. E a scelta in questo, così come le scene di Federico Biancalani, sono stati i riscrittori, no, effettivamente, di questo tentativo nostro di riprendere quella scommessa ferreriana. Tu cosa avevi apprezzato del film? Avevo apprezzato molto il fatto che gradualmente finissi proprio per emozionarmi di fronte alla matericità dell'esperienza, cioè nel senso quel che accade al di là del segno del racconto di quello che viene denunciato come obiettivo dei quattro è ricondurre lo spettatore ad un'esperienza di carattere fisiologico, cioè il corpo con le sue conseguenze, con le sue implicazioni emotive, no? E in teatro una cosa che mi tocca sempre, quasi sempre una scommessa, cerchiamo sempre con Biancalani, con Asselta, così come con Valandro, l'aiuto regista, di ricondurre il tutto, la narrazione del teatro, il rito, è qualcosa di materico, di segnico, no? Che significa prescindere dalla sua volontà di raccontare qualcosa. La materia non la tocchi nella sua morbidezza, nella sua durezza, e racconta a prescindere dalla volontà di determinare un significato concettuale dopo. Per saperne di più i dettagli del Teatro Basilica quando andrà in scena, ci lasci dei riferimenti web, se c'è un sito internet o pagine social? C'è la pagina social del Teatro Fontana, così come di Elsinore e del Metastasio, ma più che altro per essere aggiornati su tutto, meglio seguire la pagina Teatro Basilica. Lo spettacolo La Grande Abbuffata a Roma, al Teatro Basilica, dal 2 al 6 marzo 2022. Saluto e un ringraziamento al regista Michele Sinisi. Ci vediamo a teatro. Grazie a te. Grazie a te, ci vediamo a teatro, vi aspetto. Ciao ciao, ciao Fede. Con Enrico Castellani di Babilonia Teatri per presentare lo spettacolo Padre Nostro in scena a Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 5 e 6 marzo 2022. Ben trovato! Ben trovato a te Federico e a tutti gli ascoltatori. Ce ne parli? Padre Nostro è uno spettacolo che prova a riflettere, a raccontare le relazioni tra padre e figli. Sulla scena c'è una famiglia, padre con due figli e con il loro cane. Una famiglia vera e propria, famiglia sulla scena, famiglia nella vita, una famiglia di teatranti, lui Maurizio Bercini con i suoi due figli, lui è stato uno dei fondatori del Teatro delle Briciole di Parma. Uno spettacolo che prova a interrogarsi sulla figura del padre che in questi anni è stata al centro di infinite discussioni e dibattimenti. Sulla sua autorevolezza, sulla sua autorità, forse sarebbe più corretto dire sulla perdita di autorevolezza. Sono stati scritti infiniti libri, film, insomma lo spettacolo prova a raccontare tutto questo e a farlo sulla scena attraverso delle scene che, come spesso nei nostri spettacoli, si susseguono una all'altra, si incastrano e provano anche a raccontarlo, no? Questo decadimento del padre da una parte e allo stesso tempo però questo bisogno che continuiamo a avere di lui in un tempo in cui spesso e volentieri è come se ci trovassimo davanti a un tempo in cui, mentre prima il padre in qualche modo ci indicava una strada, questa strada forse anche lui non ha più gli strumenti per indicarcela, non è già data, e questo per fortuna ovviamente, nel senso che è possibile per ognuno scegliere la sua. però allo stesso tempo il fatto che non ci sia qualcuno riconosciuto come guida poi rischia di essere un vuoto di cui facciamo le spese. E quindi è in questo contrasto, no? In questa ambivalenza tra una voglia che tutti abbiamo di liberarci di un qualcosa di autoritario davanti a noi e allo stesso tempo però il bisogno di essere presi per mano. Ecco, forse quanto questa stretta di mano è forte o quanto invece è limitante, in un equilibrio che forse è impossibile da raggiungere, intorno a questo lo spettacolo si interroga. Come era nata l'idea? Nasce proprio parlando con Maurizio, Olga e Zeno della volontà di fare uno spettacolo con loro, dalle loro relazioni e dall'altra parte anche dal nostro bisogno come cittadini, ma anche come genitori e figli, di interrogarci su tutto questo, perché come spesso accade poi gli spettacoli che facciamo nascono da interrogativi, da questioni che riguardano la nostra vita e che decidiamo di portare sul palco, ovviamente non per raccontare la nostra biografia, ma perché alzando lo sguardo ci accorgiamo che queste questioni in realtà non interrogano e non riguardano soltanto noi. Come avete pensato la messa in scena? Prevede un palcoscenico completamente scarno per dare più rilievo possibile a questi corpi, per cui il palcoscenico di volta in volta, di scena in scena, diventa luoghi diversi, ma non luoghi diversi perché caratterizzati da oggetti che lo vanno ad allestire, quanto piuttosto perché negli occhi di chi guarda possiamo vedere una casa, possiamo vedere una camera settoria in cui questo padre viene analizzato e fatto a pezzi, possiamo vedere invece un letto da una parte e magari invece un vuoto dato da delle solitudini che lo abitano. E quindi le scene si sormontano una con l'altra e a seconda delle parole e delle azioni che gli attori esercitano sul palcoscenico diventa uno spazio sempre diverso. L'immagine di presentazione è molto d'impatto ed eloquente. C'è una terra arata e sopra una poltrona con questo anziano signore con barba e capelli bianchi, nudo, seduto, ai due lati i due figli, femmina e maschio, ti immaginano due figli col fucile puntato su di lui e lui che mostra le due dita medie ad entrambi. Sì, è un po' una sintesi di quello che ti ho raccontato, no? Si dice sempre che i padri vanno uccisi, che l'unico modo per andare oltre, per superare la pubertà è uccidere i padri, che siano quelli biologici o meno. E questo probabilmente è vero, però allo stesso tempo dall'altra parte invece c'è una lotta per mantenerla, quella poltrona, quella posizione, per non rinunciare a un ruolo che ci si è conquistati e non accettare invece che poi dopo in realtà la poltrona va lasciata a qualcun altro. Ecco, forse non avremmo più bisogno di poltrone, non lo so, però l'immagine che vuole fotografare e restituire in un solo scatto, in un solo frame, tutte queste contraddizioni e queste lotte che sono quelle che poi colorano le nostre vite. Lo spettacolo Padre Nostro a Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 5-6 marzo 2022, un saluto e un ringraziamento ad Enrico Castellani di Babilonia Teatri. A presto! Un saluto a te e spero di vedere tutti gli ascoltatori a teatro. Ci vediamo a teatro, ciao! Ciao, ciao Federico! Con Stefano Messina, regista dello spettacolo Effetto Serra di Alex Jones a Roma, Teatro Vittoria, del 24 febbraio al 6 marzo 2022. Ben trovato! Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Ce ne parli? È un testo inglese, Rivers Up si intitola, dall'originale, ed è una storia curiosa perché siamo in prossimità della fine del mondo. E la vicenda è raccontata da due anziani personaggi, Tom e Sally, che vivono nella loro casa sul fiume e lì da generazioni gestiscono la loro attività. Piove da molti giorni e si preparano ad affrontare, come ormai succede da troppo tempo, l'ennesima esondazione, vivono sul fiume, quindi il conseguente allagamento, conseguenti disagi. E viene descritto intorno a questo come vivono, insomma, ma come si è trasformato anche il luogo in cui vivono, no? Il fiume serviva per trasportare carbone, per pescare, ma ora non si pesca più perché le anguille si sono estinte, cioè tra le righe ma anche tutto quello che riguarda l'abusivismo edilizio, hanno costruito ferocemente, quindi non è una cosa che succede solo in Italia, ecco questo qua, insomma. Non so se può comportarci, ma comunque tutto il mondo è paese. Per cui una serie di azioni, no, che vengono descritte tra le righe, che sono poi quelle che di fatto hanno sicuramente, no, contribuito in modo determinante a quello che è il disastro a cui stiamo andando incontro. Che cosa succede? Questo fiume sale, sale sempre più minaccioso, sono costretti a trasferirsi al piano di sopra, prendono una serie di precauzioni che però alla fine risulteranno non sufficienti. Siccome vivono su questo fiume, hanno un'attività che è una discoteca galleggiante, ha riconvertito praticamente la sua attività in questa cosa che è l'unica cosa che al momento prendeva qualche sterlina, e per cui a questa barca di salvataggio la mette lì e sono costretti, appunto perché il fiume sale sempre di più, a salire su questa barca di salvataggio. E qui inizia la seconda parte dello spettacolo, dove appunto si ritrovano su questa barca ad affrontare quello che non sanno bene, insomma, quello che sta succedendo, ma che si delineerà man mano poi che lo spettacolo va avanti. Tom e Sally sono gli unici due protagonisti, che sono Viviana Tognolo e Roberto Della Casa. Dove lo avete intercettato questo spettacolo e cosa vi ha convinto? Una bella scrittura, che è fondamentale per un testo, un tema sicuramente attuale, ma c'è da dire che non è un testo, uno spettacolo sul cambiamento climatico, no? È anche una storia d'amore, perché due persone che sono insieme da 40-50 anni, che hanno affrontato di tutto, che in un momento così difficile, così di crisi profonda, ritrovano quei valori, quei sentimenti che in qualche modo hanno portato avanti nella loro vita e di cui neanche se ne ricordavano, insomma non si ricordavano forse neanche di amarsi. E in questo momento ritrovano appunto verso il finale dello spettacolo, quando si capisce che tutto è finito, che il mondo è finito, rimane questo sentimento che è l'unica cosa poi che in qualche modo gli dà il modo di finire in modo lieto quasi, insomma, no? Perché c'era qualcosa che comunque li legava e che hanno riscoperto. Nonostante la fine, no? Come dice Chiara, mi sembra Benjamin, la speranza nasce solo lì dove c'è la disperazione. Per cui questa scrittura, che poi è una scrittura da commedia, perché ci sono anche molte risate nello spettacolo, nonostante il tema sia tragico, proprio perché questi due anziani personaggi si ritrovano come inadeguati di fronte a quello che sta succedendo, no? E emozionano il pubblico, lo fanno ridere, danno voce e volto appunto alla tenerezza bisbetica di questa coppia di personaggi straordinariamente autentici e vitali, che appunto con amore, ironia, vivono l'ansia e lo sgomento della fine. Però ecco, con delle dinamiche poi da coppia in un interno borghese, invece sono in una barchetta nel bel mezzo dell'oceano praticamente. Come hai pensato la messa in scena? C'è un bel impianto scenico di Gianluca Modio, abbiamo pensato tanto, non è stato facile realizzarlo, ma insomma è un bel impianto scenico anche dal punto di vista estetico, a vedersi poi questo cambio che avviene dall'interno della casa e il mare. È molto bello come effetto scenico, riusciamo a passare da una casa a due piani ad arrivare con questa barchetta in mare aperto. Lo spettacolo Effetto Serra di Alex Jones a Roma al Teatro Vittoria dal 24 febbraio al 6 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Messina. A presto! Grazie, grazie, grazie Federico, ciao! L'agenda della settimana per quanto riguarda sia il teatro che gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Andiamo a teatro questa settimana e andiamo anche rapidamente perché abbiamo un sacco di appuntamenti da segnalare. Cominciamo con Teatro Porta Portese, i 100 anni di Pierpaolo Pasolini, con un lavoro il 5 marzo di Abraxa Teatro che cerca di portare luce su questo lavoro pubblicato postumo nel 1980 su nuovi argomenti da parte di Enzo Siciliano, poeta delle ceneri. È un testo che suggerisce Who is Me, questo lavoro di e con Lucia Bendia, con la regia di Alessandro Guerra, appunto al Teatro Porta Portese nella serata del 5 marzo ricorderanno il grande poeta ormai scomparso nel 1975. Uno spettacolo che assolutamente va segnalato da non perdere è la prima regionale al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 5 e 6 marzo per Padre Nostro di Babilonia Teatri. Si tratta di un lavoro sulla figura del padre inteso come figura archetipica, con una vera famiglia, un padre e due figli veri che rappresentano appunto l'archetipo del concetto di famiglia patriarcale. Enrico Castellani e Valeria Del Monte, insomma, appunto sono Babilonia Teatri, portano in scena questo gioco continuo di rimandi tra teatro e realtà, consumato nel corpo e nella voce degli interpreti. L'iconografia allude alla rappresentazione religiosa della tradizione cristiana, ma poi chiaramente la struttura interna arriva altrove, arriva alla nostra contemporaneità. Questo è ciò che andremo a vedere con Padre Nostro 5 e 6 marzo al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Poi al Teatro Altrove, al Teatro Studio Altrove, Siamo Dei di Riccardo Ballerini dal 4 al 6 marzo, uno spettacolo di dignità e bellezza, di incontri poetici e stupefacenti tra il mito e la follia. Il mito appunto quello del Fetonte, del Minotauro, dei Dioscuri, che incontrano il salone di una clinica psichiatrica. Anche il Teatro Parioli questa settimana aveva la compagnia Mauri Sturno, Glauco Mauri, Roberto Sturno, dal 4 al 13 marzo con le variazioni enigmatiche di Eric Emanuele Schmidt, la regia di Matteo Tarasco, che appunto cura questa nuova produzione, un'ambientazione contemporanea. Grandi artisti che appunto non hanno bisogno della mia presentazione, Mauri Sturno, dal 4 al 13 marzo al Teatro Parioli. A Teatro Basilica, lo abbiamo già ricordato con Michele Sinisi, alla regia di questa grande abbuffata, il capolavoro di Marco Ferreri, che prende forma teatrale e dal 2 al 6 marzo sarà presentato appunto a Roma con Eleni Bruschetta, con Gianni D'Addario, Adele Tirante, Stefania Medri, insomma un po' di attori che tutto sommato conosciamo. Questa drammaturgia prende le mosse dal film, ma chiaramente cerca di non replicare il concetto, insomma, la struttura lineare del film, altrimenti sarebbe stato insomma un'ora di grandi mangiate e basta, no, cerca di problematizzare il concetto che viene espresso dallo spettacolo attorno al cibo stesso, ma estesa agli altri ambiti della vita. 2 e 6 marzo, La grande abbuffata, al Teatro Basilica. Al Teatro di Roma, Teatro India precisamente, due lavori di danza. Stasera e domani, Anna Maria Aimone con La notte è il mio giorno preferito. Questo è il suo rapporto con l'altro attraverso una meditazione sugli animali e gli ecosistemi in cui vivono. Aimone mette al centro della sua ricerca il corpo e la sua danza sempre è in relazione appunto a una ricerca antropologica. In questo caso la prospettiva è quella formulata dall'antropologo Edoardo Vivero Castro, appunto sulle piste attraversate dagli animali selvatici, nel tentativo di prendere in prestito lo sguardo, intuire le possibilità dell'azione. Il 5 e 6 marzo invece la compagnia MK porta in India lo spettacolo Makam, dal nome di una tecnica di improvvisazione della musica araba. È una coreografia, ma è anche un concerto, ma è anche un viaggio nel potere immaginifico del canto. Makam significa molte cose: luogo, posizione, stazione. E attraverso, diciamo, questo riferimento alla musica araba tradizionale c'è un legame con il Medio Oriente che appunto MK, ossia Michele Di Stefano, porta interconnessione con la musica di Lorenzo Bianchi Hirsch e il canto di Anir El Safar, uno dei protagonisti più promettenti del jazz contemporaneo. Questo 5-6 marzo al Teatro India, quindi la danza per questa settimana al Teatro India. Da non dimenticare anche al Teatro Vascello, Valerio Binasco torna a Roma, c'era stato poco tempo fa in realtà, con un altro spettacolo, torna a Roma con L'Essedio di Eugène Ionesco, con due attori straordinari, Michele Di Mauro e Federica Fracassi, che appunto saranno dal 1 al 6 marzo, poi c'è una lunga tournée, saranno in scena al Teatro Vascello. Si tratta di un lavoro in cui i due attori sono trasfigurati, in costume, all'interno, diciamo, di una vicenda ormai classica. Il testo di Ionesco è ormai un testo uniformemente definito classico, che demolisce le convenzioni su cui si basa la nostra quotidianità. I personaggi della pièce sono intorno a noi reali e riconoscibili, sono le feroci vicine di casa che si esprimono sui proverbi, i colleghi, gli amici vittimisti. Ecco, attorno a questo immaginario collettivo, due vecchi, marito e moglie, che goffamente rivelano la loro piccola realtà, illusione, delirio, fallimento, ma soprattutto un grande silenzio e una difficoltà di comunicazione. Questo dal 1 al 6 marzo al Teatro Vascello per le serie di Ionesco. Ancora, perché un altro direttore di un teatro stabile si presenta questa settimana, Walter Malosti, che dirige un adattamento dalla Giulietta di Federico Fellini, dal racconto appunto di Federico Fellini, Giulietta, l'adattamento teatrale di Vitaliano Trevisan, che ricordiamo è scomparso da poco. In scena ci sarà Roberta Caronia, lo spettacolo sarà al Teatro Sala Umberto dal 1 al 6 marzo ed è l'unica opera narrativa di Fellini. Roberta Caronia è un'attrice straordinaria, quindi invito ad andarla a vedere. È un'idea soggetto, insomma, che poi prenderà forma cinematografica con il film del 1965 Giulietta degli Spiriti, ed è una sorta di fase intermedia tra soggetto e sceneggiatura, un mezzo film, un film semilavorato. È una favola psicanalitica, una favola dai toni mozartiani, frammentata sull'anima, con un tono vagamente infantile ed inquietante, una sorta di Alice attraverso lo specchio. Quindi la Giulietta, che poi è la Giulietta Masina della vita di Federico Fellini, dal 1 al 6 marzo, tra regia di Walter Malosti, sarà al Teatro Sala Umberto. Al Teatro Palladium questa settimana andremo a vedere il capolavoro di Rainer Werner Fassbinder, Le lacrime amare di Petra von Kant, per la regia di Maurizio Lupinelli e la sua presentazione di Merval Teatro, che torna a Roma dopo un bel po' di tempo e appunto porta questo spettacolo classico che insomma, sviluppa un grande interesse soprattutto per appunto la trattazione e la compagnia Merval Teatro. È una compagnia che fa del carattere sperimentale del proprio teatro un segno di riconoscimento e quindi è molto interessante alle prese con un classico, anche se un classico contemporaneo come Le lacrime amare di Petra von Kant. Quindi andremo a vederlo precisamente il 4 e il 5 di marzo al Teatro Palladium. Ancora probabilmente due cose da dirti, perché alle Carrozzerie Notte questo weekend torna a Roma una compagnia importante, quella di Frigo Produzioni, con il suo spettacolo precisamente Tropicana, 4-5-6 marzo. Ricordiamo probabilmente tutti, no? Tropicana, il brano del gruppo italiano dell'estate 1983, insomma, un brano simbolo dell'estate, di spensieratezza, un ballo di gruppo per eccellenza. Ma di cosa parla davvero questa canzone? Parla di qualcosa invece di molto più profondo, di problemi della propria contemporaneità, ma anche un'angoscia, un problema che si presenta anche oggi in maniera molto evidente. Quindi non svelo ulteriori cose, ma rileggiamo il testo di quella canzone Tropicana, perché al di là dell'andamento particolarmente gioioso, dentro c'è ben altro. 4-5-6 marzo, Frigo Produzioni per Tropicana alla Carrozzeria Nord. E poi insomma questa è la settimana anche del debutto del nuovo spettacolo di Massimo Popolizio, ovvero sia M, il figlio del secolo, che dal 4 marzo sarà al Teatro Argentina fino al 3 aprile. Si tratta di un lavoro appunto tratto dal romanzo omonimo di Antonio Scurati con la drammaturgia di Lorenzo Pavolini e appunto dedicato alla figura del dittatore Benito Mussolini, però in un modo piuttosto particolare. Ci dice lo stesso Fabrizio che si tratta di addossare, Mussolini pronuncia la frase di addossarsi la croce del potere. Dice lui stesso, Mussolini, se il fascismo è stata un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Quindi non è un concentrato di fatti storici, ma questo testo è una rappresentazione plastica dell'affermarsi del fascismo. Perché effettivamente, forse, come vediamo ogni giorno nelle nostre città e nelle nostre strade, c'è ampio bisogno di ricordarlo. Dal 4 marzo fino al 3 aprile, Teatro di Roma, Teatro Argentina, per M, il figlio del secolo, con Massimo Popolizio alla regia. E questo è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.